571. Biscotti teneri. Per questi biscotti bisognerebbe vi faceste fare una cassettina di latta, larga 10 centimetri e lunga poco meno del diametro del vostro forno da campagna, per poterci entrare se siete costretti di servirvi di esso e non del forno comune. Così i biscotti avranno il cantuccio dalle due parti e, tagliati larghi 1,5 centimetri, saranno giusti di proporzione. Farina di grano grammi 40, farina di patate grammi 30, zucchero grammi 90, mandorle dolci grammi 40, candito cedro o arancio grammi 20, conserva di frutte grammi 20, uova numero 3. Le mandorle sbucciatele, tagliatele a metà per traverso ed asciugatele al sole o al fuoco. I pasticceri per solito le lasciano con la buccia, ma non è uso da imitarsi perché spesso quella si attacca al palato ed è indigesta. Il candito e la conserva, che può essere di cotogne o d'altra frutta, ma soda, tagliateli a piccoli dadi. Lavorate prima molto, ossia più di mezz'ora, i rossi d'uovo con lo zucchero e un poco della detta farina. Poi aggiungete le chiare montate ben sode e, dopo averle immedesimate, uniteci la farina, facendola cadere da un vagliettino. Mescolate ad agio e spargete nel composto le mandorle, il candito e la conserva. La cassettina di latta ungetela col burro e infarinatela. I biscotti tagliateli il giorno appresso, tostandoli, se vi piace, dalle due parti.